24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Chi vi parla è colui che in uno studio televisivo, dottoressa Annunziata, si è trovato tra le braccia di sorpresa, poco corretta, ad opera di una sua collega, collega è dire molto, un cagnolino. Ma che è successo a Monti? Mannaggia, ma che è successo a Monti nel giro di un anno e mezzo, da salvatore della patria, infrattatore di cucciolini, empi, se l'è presa ieri, l'avete sentito dell'Annunziata, mi hanno messo in grembo un cagnolino di soppiatto da una sua collega, collega è dir molto, ce l'aveva con Daria Bignardi, ma che gli è successo? Io non lo so, in un anno e mezzo, adesso è tornato, è spuntato Super Falco, il governo Letta è inginocchiato al PDL, ce l'ha con chi gli ha messo in grembo un cagnolino. Vabbè, Mario Monti, eccolo qua. Iniziamo con lui oggi in questa puntata di 24 mattino, lunedì 21 ottobre. Buongiorno, buongiorno a Miriam Lucchetti in redazione, al nostro alpino Peter Bescapè come sempre e al nostro Barlamento. Buongiorno anche al Barlamento che può aprire, la serranda si alzi e Nicole parli. Volentieri a tutti quanti. Come sempre, allora, voglio salutare subito una affranta Silvia Brasca del TG della 7. Buongiorno Silvia. Ma com'è possibile? Ho spento la TV sul 3-2 dell'Inter e mi ti ritrovo questa mattina 3-3. Ma che è successo? Mannaggia. Vabbè, le partite. Le partite durano 90 minuti. Le partite durano 90 minuti. Vabbè, vabbè, un weekend nel quale il Milan ha recuperato un po' di punti, me la devo un attimo scialare, come si suol dire. Infatti ti sei allargato. È il Milan di Birsa, è il Milan di Birsa. Da Rivera a Gullit a Birsa. Vabbè, voglio salutare con te anche Alessandro Giglioli, buongiorno, il suo piovo onorale. Buongiorno, ciao a tutti. Allora, ditemi subito, che è successo a Mario Monti, secondo voi? Silvia, che è successo a Mario Monti? Lui che se la prende pure con Daria Bignardi, che gli ha messo un cagnolino in grembo, ma dai. Ieri è Mario Monti, secondo me, è il vero Mario Monti, perché io ho ricordi universitari, insomma, ed era così, una persona è sempre stata così, molto tagliente, molto duro, e ho rivisto Monti, insomma, meno impastoiato dall'emergenza di quando era al governo, poi dalla politica, e si è tolto molti sassolini dalle scarpe. E davvero, adesso al di là di tutto, l'inopportunità della sua frase di ieri, ma Monti con quel cane in braccio, sì, era una cosa che non stonava un po', lo stimolo, ecco, e proprio non ci azzeccava niente, per dire la di Pietro. Lui, insomma, l'ha detto ed è così. Io ho visto i suoi allievi, che ora sono titolati, scrivono sulle prime pagine dei giornali, terrorizzati di fronte a lui, perché era davvero era quello che ho visto ieri. Incute timore, insomma, se un altro attimo. Altro che. Si è sporcato un po' con la politica, nel senso sporcato nel carattere, nel voler essere, ma in realtà rimane sempre il rigoroso. Secondo me dovrebbe rimanere così. Ieri ha detto una cosa molto, secondo me, la frase, insomma, un punto è quando ha detto che di quelli che non l'hanno votato, che sono usciti e hanno scoperto, alcuni non hanno votato perché per l'abbraccio lì con Casini, Cesa e questi. E lui, secondo me, sta coltivando quella zona lì. Chi lo sa, insomma, tu Alessandro che ne pensi di che è successo a Monti in questo anno e mezzo, da salvatore della patria a infrattatore di cuccioli, dico io? Ma lui è un po' rom, come cosa che ti dica, era uno che era così anche prima, anche la penso un po' così. È stata un po' una colpa nostra dei media, che abbiamo creduto forse all'esistenza di un Monti diverso. Adesso non è che Monti sia diventato improvvisamente un cretino, sicuramente la gestione della sua immagine mediatica non la sa fare, ecco. Poi i risultati del suo governo non sono stati, diciamo, da tutti considerati eccellenti, sì. Forse ho usato un eufemismo, perché credo che la maggior parte degli italiani, se solo vede la sua faccia, si innervosisce, a parte forse una piccola percentuale, come si è visto alle elezioni, e ieri ha fatto l'autogol mediatico definitivo, perché nel momento in cui tu eterni, no? Enfatizzi l'episodio del Canempi, sì, passerai, sì, alla storia d'Italia, per carità. Sì, effettivamente. Quindi ha fatto il suicidio definitivo. Sì, perché è terribile in questo il circuito mediatico, e questo puoi aver fatto tutto. Lui evidentemente proprio non lo conosce. Non lo conosce. Visto anche, se posso dire, alle elezioni, quando si è buttato, ha cominciato a menare fendenti a destra e a sinistra, lui che aveva acquisito un'immagine mediatica, non so se autentica o attribuita da noi giornalisti, sì, comunque un'immagine mediatica di teutonica, di uomo super fatto. No, è vero, me lo ricordo anch'io che in campagna elettorale, sì, a un certo punto gli hanno detto: guarda, che devi dire le cose dure. E lui andava alle interviste e diceva: esatto, diceva, non so, Berlusconi è così, poi diceva contro un altro, ma si capiva che era un po' tutto costruito. Tra l'altro, Silvia, un'ascoltatrice ci scrive via sms: confermo, Monti in Aula Magna era così. Insomma, questo se lo ricorda ancora in Aula Magna, terrorizzato, no? Me lo ricordo anche io, cioè è difficile imbrigliare le strategie mediatiche, probabilmente. Era così. Forse la politica che non fa per lui, ecco, non è proprio quello. In ogni caso, vabbè, questa è la notizia politica del giorno, insomma, Mario Monti, poi c'è Brunetta, ve lo segnalo che sul giornale se la prende ancora: adesso cacciamo dalla Rai la macchina da guerra rossa. Ah, vabbè, insomma, è nato Brunetta. Tu quanto guadagni, Silvia? Quanto guadagni? No, vabbè, guadagno bene. Scusa, mi è venuta una brunettite. Guadagno bene. Allora, no, vorrei parlare di questa cosa, la vicenda di Roma. Ecco, allora, si contano i danni, 2 milioni di euro le stime dei danni degli scontri. Ci sono stati anche degli scontri, ci sono state anche manifestazioni pacifiche, ci sarà questa... com'è che si chiama? La campada, fino a domani, accampati a Porta Pia. Ma ecco, mi fa impazzire quando su Repubblica Ascanio Celestini, udite, Ascanio Celestini, intervistato, dice così: io sto con gli antagonisti, è successo che li prendono altre volte, poi li accusano per devastazione e saccheggio, capi di imputazione che hanno senso se radi al suolo un quartiere, ma se dai fuoco a un bancomat può essere solo vandalismo. Ma io dico, ma bisogna fare distinguo, non so, chiedo a voi, Silvia, bisogna fare distinguo tra radere al suolo un quartiere e in qualche modo dire, vabbè, ma incendiare un banco, ma te solo vandalismo, ma com'è possibile? Non ho parole, cioè sicuramente da sola. Perché... Io tra l'altro ho perso anche il significato di quella manifestazione di sabato, che doveva essere quella dei Notav, poi è andata su un altro versante. Per carità, gli accampati li abbiamo visti in altri paesi, con la grande crisi ci sono stati tanti paesi con le tende in piazza, e mi va bene. Ma il resto cosa devo dire? Cioè, tanto lo sai, ogni manifestazione ce ne sono 100, e poi che a Scagno Celestini faccio il distinguo. Mamma mia, no. Ma io non lo so, io vorrei capire, Alessandro Giglioli, tu che sei sempre anche un attento osservatore di questi fenomeni, com'è possibile che un comunque intellettuale come Ascanio Celestini, attore, in qualche modo, eccola lì, se al nome Ascanio Celestini è caduto tutto. No, che giustifichi, no, non è che giustifica, dice, però incendiare un banco, ma è solo vandalismo, io li prendo, insomma. Ma io non lo so. Oppure, ecco, ancora qua, ho visto foto e video di persone chinate per terra, se qualcuno dice stanno prendendo dei sanpietrini, io non posso sapere cosa stessero facendo davvero in quel momento. Cioè, c'è sempre in qualche modo questa sorta di giustificazione, questo giustificazionismo, dire, ma no, beh, in fondo sono dei bravi ragazzi, oh, ma quelli, ma cioè, si sono viste le immagini, è normale che dei blindati della Guardia di Finanza siano asserragliati lì con gente che gli tira bastoni, con gente, hai visto le immagini, Silvia, a 3 metri, che gli diceva attaccate, gente incappucciata, ma non lo so, è tutto viene dato per normale. Questi 2 milioni di euro chi li paga? Tu hai dei soldi, Silvia, per... Ho i 2 eurini che... hai due orini con i quali giro in tasca anch'io. Io infatti l'ho scritto su Twitter, invece stavolta i due orini non li vorrei mettere a disposizione. Facciamo così, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi entriamo con la nostra segreteria telefonica, forse recuperiamo anche Alessandro Giglioli, non lo so, forse è un accampato anche lui, sta lì. 24 mattino. Ciao Alessandro, allora io mi chiamo Licia, lavoro in RAI, faccio parte del nucleo dei precari da più di 20 anni che sono stati poi assunti nel 2009 come se fossero senza anzianità, transazione eccetera e che guadagnano 1200 euro. Parlate un po' di noi programmisti, registi, ma giornalisti, anime morte di questa azienda. Vorrei dire al grande statista che tutti si invidiano. Se tolga dai coglioni, perché è ora, per sta rompendo le palle da 20 anni, che Dio lo maledica. Ciao Stefano, tassista, Roma. Quando vediamo sti politici in televisione che s'azzuffano, in realtà poi mi capita di portarne qualcuno, quando stanno de fuori, oltre a andare sotto braccio, ma io vedi proprio le facce, ce l'hanno sempre rilassate e tranquille, perché loro tutte queste preoccupazioni non ce l'hanno, non ce l'hanno la faccia di chi soffre, di chi sta male, di chi ha dei problemi. Sono 50 anni che ce lo mettono nel di dietro, ancora gli date il voto, si mischiano come le carte, si riciclano come la monnezza, ma sempre loro sono. Brunetta, quanto guadagna? Quanto guadagna? Quanto guadagna? Quanto guadagna Brunetta? Brunetta, quanto guadagna? Quando comandavi il re si mangiava un pollo in tre, quando si salutava alla romana si mangiava un pollo alla settimana. Quando si è incominciato col sia lodato Gesù Cristo, il pollo non si è più visto. Quando sono arrivati i garofani rossi, sono spariti anche gli ossi. Quando comandava Prodi e i figli di Togliatti, sono spariti anche i piatti. E poi con Monte le larghe intese, tutti in vila con le mani tese. E se nel mentre il grillo canta, ritorna Berlusconi, ci taglia l'IMU eppure i maroni. Cara Silvia, abbiamo anche dei poeti qua che fa... No, questa effettivamente, che dire, che ridi, basta, questa è la segreteria telefonica. Ma poi devo rispondere, Manuel da Brescia mi scrive: fomenti la rabbia dei tuoi ascoltatori ma condanni la rabbia vera, ipocrita. Ma che rabbia, caro Manuel, ma qua raccontiamo le cose, ma che rabbia la fomentiamo. No, niente, Giglioli, boh, c'ha i telefoni, non so, sarà un accampato. È È nella nella tenda. A tenda. proposito della rabbia, Sì. appunto, adesso un'intervista su Repubblica, cioè, mi è venuto in mente proprio anche D'Attimo e De Luca ieri era lì, insomma, Come no? se anche, ecco, allora, Celestini e Celestini, abbiamo avuto due professori, insomma, due persone che hanno detto più o meno le stesse cose. Sì, professore, lo chiamiamo professore Henry De Luca, non so, No, Vattimo forse sì. no, per carità. No, No, ma no, sì, è sono questa. professore, però cioè, È quest'area grigia la tira. di volere in qualche modo giustificare. E quando dice Ascanio Celestini su Repubblica, per la verità ho visto la maggior parte di manifestazione tranquilla, ha ragione, è vero, la maggior parte dei manifestanti era assolutamente tranquilli e pacifici e potevano manifestare. Ma questo giustificare, dire ma non so le persone che si piegavano se prendevano San Pietrini, ma non so incendiare un bancomat se davvero non sia niente di più che vandalismo. Non so, abbiamo recuperato Giglioli, l'ha campato, dove sei Alessandro? No, e tu scherzi, ma secondo me qua un po' di jamming ogni tanto lo fanno, perché sono 3 giorni che c'è qualche problema con i telefonini. Cos'è che Io fanno? abito Scusa, proprio. cos'è che fanno? Jamming era una canzone straordinaria di No, Bob no, jamming Marley. lo sanno tutti cos'è. Ah, Dai Alessandro, è quella roba che quando ti incasinano i telefonini ecco. A Roma lo fanno tipo quando attorno al Vaticano, quando c'è il conclave, e sono 3 giorni che qua in zona San Giovanni, dove abito io, c'è un po' di già. Poi Ti magari un po' stanno le clonando precomprensioni, per tutto, ti carità. stanno clonando tutto. No, no, clonando niente, poi l'interesse verso le mie conversazioni è scarsissimo, semplicemente ogni tanto ci sono dei problemi dei Insomma, che ne telefonini. pensi di Ascanio Celestini? Ascanio Celestini dice vandalismo e Penso che è una basta. stronzata, cosa vuoi che ti dica, Alessandro? Mi No, sembra sai. talmente evidente, cioè io sono per la legalità, senza se, senza ma. quello che vedo è una generalizzazione completa sia da una parte sia dall'altra, cioè da una parte a dire sono tutti dei vandali, dall'altra o dei delinquenti, dall'altra parte a dire sono tutti. No, io appunto abitando qua, tra l'altro, sono sceso sabato, sono stato praticamente un paio d'ore a vedere un po' come girava il fumo qua, insomma. Ho capito subito che rispetto a 2 anni fa sarebbe andata molto meglio, per tanti motivi, anche perché il servizio d'ordine della manifestazione era organizzato bene, ma anche perché le forze dell'ordine avevano fatto una strategia completamente diversa. Non entro nello specifico perché abbiamo poco tempo, però l'altra volta avevano sbagliato tutti, al di là del fatto che esistono ovviamente quei 200, 300, 400, quelli che vuoi, i violenti, in ogni caso, ma esistono anche, come ognuno sa, dei colloqui, dei dialoghi abbastanza serrati fra gli organizzatori delle manifestazioni e le forze dell'ordine. L'altra volta è andato tutto malissimo, questa volta ok, ci sono stati gli incidenti, ma rispetto a quello che è successo il 15 ottobre 2011 non è successo questo è vero. Allora, ieri mentre Silvia Brasca vedeva la sua Inter arrancare a Torino, anche Giglio, tutte e due, vero, due interisti, mamma mia ragazzi. Oggi fai il ganassa tanto perché abbiamo pareggiato brutalmente. Io invece mi guardavo Diego Armando Maradona, il pibe d'oro. A un certo punto, peccato che non si possa far vedere in radio, quando ha parlato di Equitalia ha fatto il gesto dell'ombrello a Equitalia, senti un po'. Non sono stato mai un evasore, se lo dico a Equitalia, Eco Francia, se lo dico a qualsiasi, perché io non sono andato a firmare il contratto, prima di tutto. Quello che hanno firmato il contratto si chiama Coppola e Ferlaino, e tutti e due possono andare per l'Italia tranquillamente, e a me mi tolgono le orecchini, l'orologio, che vedi come sono. Sì, ormai devono andare tra me. Vabbè, insomma, dice: mi tolgo gli orecchini, e poi ha fatto vedere, vedi che vado in giro senza orologio a Fazio, e poi fa come dire, non vado mica più in giro con gli orologi, che quando sbarco in Italia Equitalia mi sequestra tutto, Silvia, è tornato il pibe d'oro. Alla grande. No, che dice Giglioli? C'è chi scassa il bancomat, che ci si piglia direttamente i soldi pubblici, però si piglia pure gli applausi. Noi abbiamo giustamente fischiato chi da 2 bastonate a un bancomat, però sentivo che veniva applaudito quello che invece rubava i nostri asili. Applaudito, applaudito in piedi tutti per 5 minuti quando ha finito Maradona. Che c'hai, Silvia, Tege? Non mi è molto simpatico. Non ti è molto simpatico. Va bene, ti abbiamo messo jamming, Giglioli. Così il jamming. Vieni a passare qua a Roma nel casino. Poi vediamo. Questo è l'unico jamming che io riconosco. Grazie, Giornale Radio. Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:21 minuti, pronti a leggere i giornali, la rassegna stampa. Ben ritrovati, cari ascoltatori. Se vi aggiungete ora, come sempre, al mio grido, razza di debosciati, benvenuti. Allora, oggi di che parleremo? Parleremo alle 8:15 di questa proposta di legge per considerare reato chi nega la Shoah, ma chi nega anche qualsiasi genocidio. Davvero pensate che sia possibile, sia giusto incarcerare un'idea, anche se un'idea aberrante, come quella di chi ancora dice non c'erano le camere a gas, per esempio? Sarà con noi anche il presidente della comunità ebraica di Roma, Riccardo Pacifici. Le polemiche ancora sulla vicenda Eric Prib, che sono tutt'altro che sopite. Ci sarà con noi anche Massimo Fini del Fatto Quotidiano. Questo alle 8:15. Ora andiamo a leggere i giornali. È lunedì 21 ottobre, intanto i titoli. Il Sole 24 Ore apre con questa notizia che abbiamo sentito anche nel giornale radio: statali, taglio del 10,5% in busta.

e 15 con noi il presidente della comunità ebraica di Roma, Riccardo Pacifici, e Massimo Fini, il legale di Prib, che esalta ancora il nazista. Pacifici dice la tomba mai in Italia, ma insomma parleremo anche della discussione se sia giusto o no punire col carcere, una legge lo prevede, chi nega la Shoah. Pepito d'oro, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, e vabbè, succede, si è in vantaggio 2-0 e poi 4 pere. Ma voglio chiudere con la carta costa, vale a dire l'articolo più inutile scovato sui giornali, un'intera pagina di Antonio Borrelli sul Giornale, per la disfida tra i fan dei Believers e i fan dei One Direction. Credo che siano questi gruppi davvero improponibili. Parlare di musica è davvero tanto, così massacreranno anche me, Alino Mila, nel mio profilo Twitter. Scatenatevi Believers, scatenatevi Directioners, ma chi se ne frega, i Directioners contro i Believers, le nuove tribù degli adolescenti unite dalla venerazione di star musicali, divise dall'odio fino a picchiarsi, e si parlano così: ti lovo, sfighi, busta, bimbo minchia, ti asco, scialla. Ma dai, ma va bene, ma parlate del disagio giovanile vero? I Believers, i One Direction, dai, andiamo al Giornale Radio 24 mattino. Siamo qua alle 8:20. Allora, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Oggi di cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare ancora, intanto non si sono sopite le polemiche sulla vicenda Erik Priebke, ma non vogliamo parlare solo di questo, vogliamo parlare di una cosa un po' più importante, nel senso che siamo tutti d'accordo che dire che la Shoah sia una menzogna, che non sia esistita, che le camere a gas siano in discussione, siamo tutti d'accordo a dire che siano idee aberranti. Oddio, qualcuno non sarà d'accordo, ma pazienza. Ci sono in realtà testimonianze, ci sono le prove, l'olocausto è una verità storica accertata. La domanda però è questa: è giusto secondo voi punire chi nega questa verità storica addirittura con il carcere? E sì, perché la Commissione Giustizia al Senato ha proposto una modifica che potrebbe essere legge se il Parlamento la approverà, e c'è un accordo abbastanza esteso che porterà a condannare chi nega qualsiasi genocidio, non solo la Shoah, qualsiasi verità storica accertata, con il carcere, perché diventerà un reato il cosiddetto negazionismo, e lo diventerà con una punizione da 1 anno e mezzo fino a 7 anni e mezzo di carcere. Allora, è davvero giusto arrivare a punire con il carcere? Ne vogliamo discutere con Massimo Fini, scrittore, giornalista del Fatto Quotidiano. Massimo, ben ritrovato e buongiorno. Ciao, buongiorno. Voglio ricordarti che io scrivo anche per il Gazzettino di Venezia. Ah, benissimo. Lì, poverini, si arrabbiano. No, sì. Il Fatto Quotidiano e il Gazzettino, sì, di Venezia. Sì. Saluto anche Riccardo Pacifici, che è il presidente della comunità ebraica di Roma. Buongiorno, Pacifici. Buongiorno a tutti. Senta, prima di entrare sul tema, devo però fare una premessa sulla questione, o meglio, portarla un attimo ancora su Erik Priebke, perché la vicenda è tutt'altro che conclusa. Per me è abbastanza incredibilmente che si trascini da giorni. Però ha sentito che l'avvocato dice: abbiamo vinto sulla comunità ebraica che voleva fargli fare la fine di Bin Laden, cioè il feretro buttato nel mare lì, così invece avrà una degna sepoltura. Lei cosa risponde? Ma come si dice, facciamo calare il silenzio, come hanno anche chiesto i figli di Erik Priebke, che stiamo dando la pubblicità a uno squallido personaggio che nell'esercizio delle sue funzioni di legale sta cercando di avere un minimo di vetrina. Il boia delle fosse ardadine lo dobbiamo dimenticare, dobbiamo smettere anche di nominarlo, e credo che siamo agli ultimi fuochi. In fin dei conti è andato tutto come doveva andare, sarà sepolto nell'assoluto silenzio in un luogo assolutamente nascosto, e chi violerà il segreto del luogo dovrà rispondere di fronte alle autorità competenti. Lei comunque ribadisce, poi così chiudiamo il discorso, che in Italia non può essere sepolto, a parte che se è segreto il luogo potrebbe essere anche in Italia a questo punto. Ma io non lo voglio sapere, il problema non è il suolo italiano, il problema è la segretezza del luogo. Ma siccome il personaggio ha dimostrato di non essere molto affidabile, cioè mi riferisco a colui che da pochissimi giorni, anche se per alcuni giorni, ha millantato di essere colui che doveva gestire la salma del boia delle fosse ardeatine, allora credo che si commenti da solo. Lei comunque non lo vuole sapere, teme però che si saprà, questo è, mi sembra di capire, visto insomma che lo faccia ma sapere. Ma sì, non si doveva sapere nulla di Albano, 5 minuti dopo stava su tutti i siti, l'indirizzo, il luogo, tutto quanto, ci ha creato pure, insomma, pure motivo di turbativa di ordine pubblico, ma ripeto, non è questo il caso, credo che sia bene far calare il silenzio e ne riparleremo qualora dovessero uscire notizie nuove. Allora, veniamo al tema di cui vogliamo dibattere, perché qui Massimo Fini, so che la posizione è molto, molto netta su questo, Fini, mi sembra di capire se ho letto bene anche sul Gazzettino, cioè a dire il negazionismo è un orrore, ma punire con una legge, con il carcere chi nega per esempio la Shoah, cos'è, un orrore uguale contrario? No, beh, forse un orrore uguale no, però... No, ma è un reato di opinione che viola un principio fondamentale, tra l'altro garantito dall'articolo 21, che è la libertà di espressione. Non è solo grave in sé, ma è grave perché naturalmente quando si scalfisce un principio si sa dove si inizia, ma non si sa dove si va a finire. Un principio, se non è più assoluto, non è più tale, insomma. Quindi si potrebbero aprire le caterate, insomma. E uno ha diritto, insomma, la democrazia deve accettare anche le opinioni che le paiono più aberranti, perché questo è, purché non siano fatte valere con la violenza, naturalmente, queste opinioni giuste o sbagliate che siano, perché questo è il prezzo che la democrazia paga a se stessa, se no si trasforma in un altro regime, una specie di teocrazia laica, quindi non è assolutamente accettabile. Non è accettabile. Riccardo Pacifici, l'ultima volta che ci eravamo sentiti, lei è uno dei maggiori invece fautori di questa linea che è considerata da alcuni molto dura, cioè perché l'idea anche del punire il negazionismo, che ripeto è un'aberrazione dal punto di vista delle opinioni, con il carcere o comunque considerarlo reato? Ma in primo luogo noi dobbiamo rispettare le opinioni di coloro che sono contrari e paradossalmente sono qui a mettere in evidenza che anche all'interno del mondo ebraico illuminate persone, faccio l'esempio del professor Giorgio Israel o Fiamma Nierenstein, che di certo non sono delle colombe, no? Sono contrari, hanno delle forti perplessità e credo che sia la testimonianza di come anche al nostro interno, non dico che ci sono dei dubbi, ma... l'idea del concetto della libertà di espressione è così alto a tal punto da consentire a chiunque di propagare certe idee. Esiste però poi la realtà dei fatti. La realtà dei fatti è tutt'altra. Non esiste un meccanismo di negazione in quanto aspetto, diciamo così, di tentativo di approfondimento storico. È alquanto evidente nella storia degli ultimi 70 anni che i negazionisti della Shoah lo fanno esattamente per portare avanti quello che era il progetto di Hitler e di tutto il nazismo. Cioè, io torno proprio ieri notte, sono tornato da Auschwitz, quindi posso riconfermare tutto quanto quello che abbiamo modo di continuare ad approfondire con gli storici, con le testimonianze, e credo che qui non sia in discussione nemmeno da parte del giornalista che è in collegamento il fatto che la Shoah, come qualcun altro in maniera maldestramente sta tentando di negare. Qui siamo di fronte ad una vicenda in cui coloro che negano, come ci insegna la professoressa Donatella Di Cesare, ha fatto un bellissimo libro, sì. Se Auschwitz è nulla contro il negazionismo, il meccanismo è negare la Shoah per continuare a portare avanti quelle idee, proprio perché il nazismo prevedeva la negazione della Shoah e lo hanno dimostrato tentando di far saltare le camere. Lei dice il negazionismo è un modo per poter portare avanti quelle idee e poi perpetrarle. Sfido chiunque ascoltatore che avrà modo di vedere qualunque sito negazionista se non è poi accompagnato per esempio da meccanismi infarciti di idee che sono contro la storia, cioè propagazione di idee nazifasciste, propagazione di idee che vogliono segregare gli ebrei come cittadini di seconda o terza categoria, odio contro gli ebrei, odio contro tutti gli immigrati, tutti diversi, molte delle forze populiste e antieuropeiste che in questo momento cominciano ad avere significativi punti percentuali dalla Grecia all'Ungheria, la Norvegia, devo dire esclusa Le Pen, perché il Le Pen della prima stagione si arenò sulle spiagge quando il padre, il fondatore del partito del sì. Front Nazionale, fece un comizio negazionista e venne immediatamente arrestato. Oltretutto l'Italia non sarà nemmeno apripista in questa vicenda, sarà il 15° paese europeo, c'è il protocollo europeo di Budapest del 2008 che invita tutti i paesi europei entro 24 mesi dal 2008, sì. Quindi siamo anche in mora a recepire questa norma e introdurre il reato del negazionismo, sì. e quindi diciamo c'è un consenso assolutamente chiaro sull'argomento. E poi mi permetto di citare, come ho fatto con il Presidente della Repubblica, Piero Terracina, un uomo da cui in ogni sua testimonianza non ha mai espresso odio, e ha detto in maniera molto brillante alla scuola di fanteria a Cesano, proprio prima dell'estate, per ripiegare a uno di quelli che ha esultato alle parole di un noto giornalista o a chi propaga il negazionismo, che incautamente era stato invitato, e il generale Graziano si è immediatamente scusato, quindi diciamo, sì. consentendo agli storici e soprattutto al sopravvissuto di fare una lezione veramente di Shoah e della Seconda Guerra Mondiale a Piero Terracina. Lui ha detto, non so perché negano, una cosa è certa, se fossero vissuti a quell'epoca sarebbero stati dalla parte dei carnefici. Mm. Insomma, il timore... Ha detto, sarebbero stati anche loro carnefici. Il timore molto forte è questo. Massimo Fini, che risponde a Pacifici, che dice, insomma, in fondo il primo scopo del negazionista è quello di perpetrare quelle idee, che poi sono la base di cultura, perché un qualcosa del genere si possa anche ripetere. Ma questo è, per la verità, è un processo alle intenzioni. Però io penso invece che sia vero il contrario, nel senso che mettendo un reato come questo, in realtà si incitano in qualche modo i giovani che sono ribelli per natura, che naturalmente non sanno nulla di ciò che è successo veramente o sanno poco, si eccita il negazionismo. Io credo che la cosa vada, lo diceva anche la Nierenstein, mi pare, vada combattuta sul piano culturale, mi pare che su questo molto, molto si sia fatto. Ma ripeto, non è solo grave in sé, è grave perché ledendo un principio apre la strada. Oggi si fa reato del negazionismo, domani si farà reato di qualche altra opinione. Io ho diritto di negare ciò che mi pare, sarò un cretino e lo dimostrerò, ma però ho anche diritto di essere cretino. Il diritto a essere cretini. Ripartiamo da qui, tra qualche minuto dopo la pubblicità, vorrei sentire anche il parere di voi ascoltatori. 800 24 00 24, ho una domanda specifica poi a Riccardo Pacifici, per esempio sul caso Odifreddi, che è esploso ed è deflagrato negli ultimi giorni. Cioè, Odifreddi, matematico, ha detto ma delle camere a gas, ha scritto sul suo blog, so solo quello che la propaganda, diciamo il ministero della propaganda della guerra, durante la guerra, mi ha fatto, americano ovviamente, mi ha fatto sapere. Ecco, questo, per calarlo nel caso concreto, è un'ipotesi di negazionismo che sarebbe punibile come reato. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:37 minuti, siamo con Riccardo Pacifici, presidente della comunità ebraica di Roma, e Massimo Fini, scrittore e giornalista, a discutere del reato di negazionismo che potrebbe essere introdotto presto in Italia. Vorrei sentire come ascoltatori, ascoltatrici, Alessandra da Pisa. Buongiorno Alessandra. Sì, buongiorno. Io volevo dire un paio di cose. Allora, premetto che io personalmente sono contraria a questa legge. Naturalmente non è che sono contraria perché ritenga che non sia gravissimo negare la Shoah e tutto quello che è accaduto 70 anni fa in Europa, però perché ho dei grossi dubbi sull'efficacia di una legge di questo genere, che tra l'altro secondo me può anche essere facilmente strumentalizzabile. Mi immagino già che ricadute questo può avere per esempio su Israele, che già, voglio dire, è spesso e volentieri accusato di varie nefandezze, più o meno ragione, secondo me meno che più, ma comunque questo è un problema, diciamo, sul merito della legge. L'altro problema che mi pongo è quando cominciamo a dire che non si può negare l'esistenza della Shoah. Allora qualche cosa altro non si dovrebbe poter negare, perché faccio un esempio, io faccio la storica medievale, mi trovo regolarmente a dover combattere contro siti che propagano la grandissima balla dell'omicidio rituale o della profanazione dell'ostia. Cioè lei dice un po' come Massimo Fini, il timore che se si apre questo fronte si può iniziare a andare aprire. Diciamo, mi sembra che il problema è questo. Allora io quando a un certo punto mi trovo dei siti che mi dicono che il re nel Medioevo ammazzava i bambini in occasione della Pasqua per impastare le mazzotte col sangue, cioè chiaramente no, cosa faccio? Mi dovrei mettere a ridere, perché è chiaramente un'idiozia colossale. Però il problema è che cosa faccio? Lo vieto per, cioè, vieto per legge di dire queste idiozie. Stessa cosa vale per altri tipi di gravissimi crimini, tipo, non so, il genocidio armeno. Attenzione, però guardi Alessandra, adesso si parla della Shoah perché è il genocidio forse più conosciuto, ma in realtà vale per tutti i genocidi, non è che è una cosa specifica per la Shoah questa legge. Ovviamente sarebbe la negazione di qualsiasi genocidio, anche quello armeno. Però lei giustamente, insomma, pone la questione un po' come l'ha posta Massimo Fini. La ringrazio Alessandra, vorrei andare, prima di tornare da Pacifici, da Nicola, dalla provincia di Latina. Buongiorno Nicola. Sì, buongiorno Alessandro. Io credo che al di là della discussione così filosofica, se negare, se fare una legge o meno, io vorrei andare un attimino più in là. Il discorso è questo, io uso questo termine inappropriato. Chi è che ha commesso quel crimine? Sa di averlo fatto e lo riconosce. Io credo che siano ancora più vivi chi, per ragioni proprie, non so quali possano essere, addirittura vadano a negare quello che hanno commesso. Allora, che sia vile siamo tutti d'accordo. Il problema qui è discutere che fare di fronte a quella viltà di chi nega. Sì, questo, però ripeto, si va oltre, si dà ancora più importanza a queste cose qua, cioè io credo che queste siano persone che non vanno proprio considerate nella maniera più assoluta. Poi è chiaro che si può fare legge e quello che vuole, però il discorso è questo: chi è che nega quello che ha fatto va oltre quel vile che l'ha commesso. E quindi andrebbe in qualche modo, insomma, a sepolto sotto una cortina di silenzio, le dice. Nicola, io la ringrazio, tante considerazioni che giro a Riccardo Pacifici insieme a questo. Guardi Pacifici, è vero che arrivano sempre sms di questo tipo, lei sarà abituato, ma ne arrivano anche qui in trasmissione a dire basta col vittimismo ebraico, basta, gli ebrei hanno rotto. Io li leggo così e arrivano, cioè ce ne sono alcuni, cioè che risponde lei mettendo insieme anche quello che dicono gli ascoltatori? Esattamente ciò che ho detto ad Auschwitz, non siamo ad Auschwitz per piangere i nostri morti, l'ho detto anche davanti al presidente Napolitano, e questi mascalzoni che mandano questi messaggi dovrebbero anche ascoltare quello che noi diciamo. L'ho detto in diretta TV, su 3 TV almeno, erano Sky TG24, TGcom, Rai News, tutti quanti hanno sentito, abbiamo detto non siamo qui per piangere i nostri morti, ma per costruire gli anticorpi per il futuro, perché la lezione dei sopravvissuti è esattamente questa: evitare che ad altri cittadini, non agli ebrei, a me della compassione degli altri non meritai i miei nonni, che ieri di cui ieri ho pregato nella loro tomba virtuale, che era quella dei camini e dei forni crematori di Auschwitz, e io ovviamente non ho mai conosciuto. Siamo di fronte ad una vicenda che va distinta, e vorrei fare un ulteriore chiarimento affinché non ci siano equivoci. Tanto interessanti ovviamente tutte le cose che hanno detto anche gli ascoltatori, almeno quello che avete mandato in diretta. Certo, nessuno, tutti condannano la negazione della Shoah, e non stiamo parlando dei personaggi provocatori come prima avete detto, sì, di Odi Freddi. Ecco, allora, lei per esempio in primo luogo, allora, in primo luogo noi siamo di fronte ad una situazione in cui non stiamo chiedendo di mettere alle sbarre coloro che magari in una chiacchierata al bar tra amici dicono una cosa del genere, anche se in quel bar si ritrova un covo di neo di Nazi skin, ok? E che magari non solo si limitano a negare, ma poi vanno in giro a bastonare la gente o a minacciarla. Mi spiego, come per esempio è avvenuto ad Albano, di cui ovviamente qualcuno può permettersi di dire che la settimana dopo Pripke si poteva fare anche il funerale del sottoscritto. Mi spiego, senza che nessuno abbia immediatamente chiesto spiegazioni a questo personaggio già pluricondannato per queste cose. Ma chi ha detto queste cose? L'ha detto chi era uno dei uno dei facinorosi, di quelli che andavano lì a sostenere la salma del boia delle fosse ardadine, di una nota organizzazione antisemita, neonazista, xenofoba, razzista, potrei andare avanti, viste le varie condanne che hanno avuto, non hanno minacciato solo il sottoscritto, ma le massime autorità dello Stato, l'allora Presidente del Senato e l'allora il Sindaco. Qui siamo di fronte invece all'idea di costruire dei meccanismi in cui in un'aula delle scuole un professore non può negare la Shoah, in un'istituzione pubblica un deputato non può alzarsi in un Parlamento o in un consiglio comunale a farlo, non in mezzo alla strada, non abbiamo bisogno delle spie dell'ovra che percepivano e quindi mandiamo in giro la gente ad ascoltare quello che uno dice o magari in una chiacchierata. Cioè, questa è una distinzione importante, cioè non è che se uno in una chiacchierata dice una bestialità, o magari in un'intercettazione, visto che siamo in mezzo al Grande Fratello, magari tra me e lei, ma lei dice ma Civici non è d'accordo, un minuto dopo arriva un magistrato e la mette dentro. No, ma lei dice chi, non so, da una cattedra, da un'istituzione. Però adesso a tutti pervenissi, a questo punto rispondo pure alla mia sorella, oltre che amica, Fiamma Nevesta, neanche a colui che sta dall'altra parte. Ma se adesso io vi vengo a dire che ho piacere e godimento, perdonatemi il paragone abbastanza pesante, nel vedere filmati di pedopornografia, non sto parlando di pornografia, che è ancora permessa, seppur filtrata, la pedopornografia, chiunque tenta di collegarsi ad un sito, va in galera in ogni parte del mondo, dalla Cina a Teheran, agli Stati Uniti, all'Italia, all'Europa. Perché nessuno si indigna di fronte all'idea che in fin dei conti uno non tocca bambini, ma li guarda mentre fanno sesso? Vedo che lei è andata assolutamente al punto. Proprio perché dietro c'è il mercato del turismo sessuale, delle persone che vanno là, della tratta dei bambini. Vedi l'ultima notizia di quel bambino preso in quella bambina presa in Grecia, di cui adesso si sta cercando di identificare e non sappiamo abbia potuto subire, se per esempio, perché poi vanno parallele la pedopornografia e l'utilizzo degli organi. Allora faccio una domanda: ma se dietro a tutto quel meccanismo di godimento nell'ascoltare o vedere, diciamo, immagini eroticamente aberranti per certi, ma piacevoli per altri, come si dice, i gusti ovviamente non li possiamo discutere, e ripeto, non parliamo di soggetti che fisicamente toccano qualcuno, ma che guardano, allora le faccio una domanda: perché quei siti sono censurati, anzi chiunque prova a collegarsi viene immediatamente indagato, perché basta vedere l'IP della persona così. E dovremmo domandarci anche un'altra cosa: perché allora chiudono i siti in Europa, vengono chiusi, e come mai coloro che negano la Shoah, e che ripeto non negano solo la Shoah, ma vanno contro la Chiesa, il Concilio Vaticano II, quindi continuano ad accusare gli ebrei di genocidio, e chissà quanti messaggi avrete ricevuto in questo momento, che palle questi ebrei in fin dei conti hanno ucciso Gesù. Ce ne sono, sono un vecchio radicale, quindi vengo da questo tipo di... Però lei dice il paragone è molto forte. Faccia così, Pacifici, però devo andare un attimo alle informazioni sul traffico. Il paragone è molto forte. Lei dice: perché quei siti pedopornografici vengono chiusi e invece magari siti nei quali si predica l'odio, si negano queste cose o si fa scempio anche della memoria delle persone, delle vittime, in ugual modo invece non vengono trattati in ugual modo. È interessante anche su questi temi, Massimo Fini, dopo il traffico vorrei ripartire da qui. Allora, Massimo Fini, il paragone di Riccardo Pacifici certamente è un paragone che... Sì, ma è un paragone che non c'entra niente, perché pedopornografia riguarda i minori e rientra nella tutela dei minori, che ha tutt'altra gestione. Quando io ero ragazzo liceale, il professore di liceo ad Azzano, comunista, sosteneva che la rivolta ungherese era una rivolta nazifascista. Cosa dobbiamo fare? Avremmo dovuto arrestare il professor D'Azziano? Voglio dire, si aprono abissi. Io sono abbastanza preoccupato di questa escalation su... fra poco potremo parlare solo attraverso la Gazzetta Ufficiale e i dogmi e i dogmi assoluti, insomma, non esistono dogmi assoluti. C'è un storico inglese, mi pare, David Hilgen, che è stato 3 anni in galera perché non negava l'olocausto. Come no? Ma lo ridimensionava. Ora per me è una sciocchezza, nel senso che... È stato arrestato, credo, anche in Austria quando ha messo piede in Austria. 3 anni di galera. Ora è una sciocchezza, nel senso che se lo sterminio riguarda 4 milioni invece che 6 non cambia assolutamente nulla. Basterebbe che un bambino ebreo, visto che parliamo di questo, fosse ucciso perché è ebreo, che è lì il male, no? Però voglio dire che non si può neanche impedire la ricerca, perché la ricerca deve essere libera. Poi, ripeto, ognuno si assume le proprie responsabilità, che non sono penali, sono, ripeto, culturali, morali, di tutt'altro tipo. Ma ripeto, c'è là quest'altra cosa, a me se mi dicono che una cosa non la posso dire, mi viene istintivamente la voglia di dirla. Ma perché Fini è così, è no, un ribelle. No, non sono io che ribelle. Sono così. Fini rappresenta un po' l'animo ribelle che c'è in molte persone, no? Dico questo in sì, senso. Sì, io ripeto, non sono tanto convinto che questi naziskin sappiano veramente qualcosa. Penso che parecchi di questi qua... Per il bellismo giovanile, per cosa, siccome questo è una cosa indicibile, si mettono in cerca. Siccome no, ma... effettivamente questo pacifici non è un no, punto momento, che bisogna una cosa vorrei concludere. Vorrei concludere, ma tu mi hai fatto. No, ecco, no, è ovvio che, cioè, io posso odiare chi mi pare, ma è ovvio che se gli torco anche solo un capello devo andare in galera. Questo è il discrimine assoluto. Basta, punto. Il discrimine è questo. Pacifici, non vi siete posti il problema del fatto di creare quasi una sorta di attrazione verso un reato che viene creato e che fino a questo momento non c'è? E quindi, dice Fini, ci sarà qualcuno che per farsi bello proverà anche il gusto di diventare negazionista? Ma come si dice, il sadismo fa parte, diciamo, del mistero dell'uomo. Io ho dovere di smentirvi, cioè evitiamo di non dire le cose come stanno. Vogliamo dire che sono i poveri giovanetti che fanno queste cose, i professori a Teramo, i professori che hanno fatto altro in altre parti del mondo. David Irving, da quando dice queste cose, mi sembra che l'età sia abbastanza un po' avanzata rispetto all'essere peccati di gioventù. E io voglio prendere un altro esempio, e non fateci lezioni di moralismo su questo. Ricordo ancora un bellissimo pranzo fatto all'ambasciata di Francia alcuni anni fa. Mastella stava introducendo il reato del negazionismo, poi per motivi diversi cadde quel governo in cui Mastella era ministro di grazia e giustizia. E io ero a pranzo con Simone Weil, una donna sopravvissuta alla Shoah, nota per tutte le sue battaglie proprio sul ruolo delle donne in Europa. Credo che su cui ha avuto anche un Nobel. No, quindi credo che stiamo parlando di figure totalmente al di sopra delle parti. Quando io gli ho chiesto, ovviamente ponendoci anche noi dei dubbi, non siamo così spietati, no? E lei ha detto, guardi, dice Pacifici, grazie a quella legge che in Francia è già reato da anni, e non a caso in Francia, in Germania, in Austria, potrei andare avanti, ripeto, ormai sono 14 paesi, sì. Dice il signor Le Pen, quindi il padre, quella figlia che oggi ha grande successo, ha finito la sua ascesa, proprio perché dopo quel comizio lui tentò quella cosa. Allora, da quel momento lui si è fatto il carcere, gli sono stati tolti tutti quanti i diritti per presentarsi alle elezioni, e quindi la figlia ha cambiato radicalmente il messaggio, anche se ovviamente avremo molto da dire su quello che dice e come lo dice, ma almeno tutti quei riferimenti sono stati totalmente cancellati. Ed è un passo assolutamente importante, è uno spartiacqua. Ripeto, Hitler non è andato al potere con le armi o con le pallottole, ci è andato con il consenso. Ma noi dobbiamo preoccuparci di come l'Europa, che ha partorito Auschwitz e Birkenau, e non solo Auschwitz e Birkenau, perché ha partorito altre ideologie totalitarie, possa costruirsi gli anticorpi. Io sono molto preoccupato, attenzione, da romano, da italiano, da europeo. Noi andremo al prossimo appuntamento elettorale in Europa con forze, ripeto, anti-europeiste che vogliono cancellare l'Europa, che populiste, xenofobe, naziste, di cui noi non sapremo come fermarle. Noi dovremo costruire anche dei meccanismi per impedire a questi partiti di presentarsi alle prossime elezioni. È l'unico paese che teoricamente potrebbe farlo, paradossalmente l'Italia, perché noi abbiamo nella norma transitoria della nostra Costituzione, cosa che altri paesi non hanno, il fatto, il divieto della ricostruzione del partito fascista, tutte quelle ideologie. No, allora, tanto il tema rimane aperto, perché la discussione di legge ancora ovviamente c'è, non c'è, ma insomma ne parleremo, visto che ci sono anche tanti ascoltatori che ci hanno scritto. Io per il momento vi ringrazio, Riccardo Pacifici, Massimo Fini, grazie per essere stati con noi. Tutto ovviamente è ascoltabile sul sito radio24.it. E che dire, io ringrazio Miriam Lucchetti, Alessandro Marcotulli, Elisabetta Fusconi in redazione e il nostro alpino Peter Pescapè in regia. L'appuntamento come sempre è rinnovato a domattina alle 6:30. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta.